Le note finali del Castello di Cappa, la musica erano di Angela Bruni, il testo di Massimo Roberto Beato che abbiamo in collegamento telefonico, dal romanzo Il Castello di Franz Kafka, regia di Jacopo Bezzi con Massimo Roberto Beato, Nicoletta Laterra, Lorenzo Venturini, Brunella De Feudis e Ugo Benini. Massimo, ci sei? Sì, eccomi, ciao. Benvenuto al Radioteatro Sonda Rossa. Grazie, grazie a voi. Com'è andata questa audizione, nel senso sentirlo bene, e non vederlo? Molto bene, devo dire la verità, è stata molto emozionante perché è un'esperienza del tutto nuova per noi sentire lo spettacolo e ci ha ricordato i bei tempi dei radiodrammi e quindi insomma è stato bello, anche perché non immaginavamo che lo spettacolo potesse avere un potenziale anche solo a livello sonoro e quindi insomma ci siamo emozionati noi stessi che in realtà lo conoscevamo alla perfezione, quindi grazie a voi per questa bellissima opportunità. Che poi nel tempo sviluppato questa attitudine per cui io gli spettacoli a teatro li vado a vedere con questa deformazione per cui sento se sono adatti alla radio, quindi chiaramente spettacoli molto di testo e questo era uno di quelli. Ho avuto modo di vederlo al Teatro delle Stanze Segrete dove è stato in scena lo scorso anno, si trattava dell'anteprima nazionale, la prima nazionale se non sbaglio. Sì, è stata la prima nazionale di questo esperimento, un esperimento folle, un esperimento masnadiero in tutto e per tutto. Era tantissimo tempo che sognavo di scrivere un adattamento nell'ipotesi di una messa in scena da questo meraviglioso romanzo incompiuto di Franz Kafka e le Stanze Segrete ci hanno offerto questa possibilità e abbiamo deciso insomma di lavorare a questo spettacolo che poi è stato anche presentato al Roma Fringe Festival sempre l'anno scorso nel 2014 e ha anche vinto poi la prima edizione del premio Cerami 2014 come miglior regia e migliori costumi, quindi insomma è stata una bellissima esperienza anche perché abbiamo avuto un'altra nomination poi alle musiche, una nomination come miglior attore giovane per Lorenzo Venturini, quindi una soddisfazione molto grande per un testo molto difficile, molti nostri colleghi e addetti ai lavori erano diffidenti e devo dirti la verità anche alcune critiche che sono state diffidenti perché chiaramente è un'operazione particolare insomma che chiaramente può piacere può non piacere, però noi siamo del tutto soddisfatti e riascoltarci oggi è stata una bella insomma emozione. Che poi chiaramente chi ha l'ascolto non può godere dei costumi e della scenografia in un luogo ristretto come è stato quello delle Stanze Segrete, però sì. altamente suggestiva e però in questo senso invece le musiche vengono apprezzate maggiormente, assumono un ruolo ancora più importante. Sì, sì, moltissimo. Io tra l'altro ho apprezzato anche la sonorità tra virgolette rumoristica di sottofondo, no? Sì, è vero, una è delle vero. Mie preoccupazioni era mamma mia come funzionerà, purtroppo sai le registrazioni, rumori di sottofondo e invece sembrava quasi fatta da un rumorista in sì, alcuni punti sì. Era proprio bella, cioè insomma avevo il terrore delle pause, invece non so, anche se io ero ovviamente facilitato nell'ascolto perché conoscevo lo spettacolo, devo dire che per un momento mi sono messo al di fuori e l'ho notato che è stato un piacevole ascolto secondo me anche per chi non ha avuto l'occasione di vederlo, forse sì. Si sarà incuriosito magari, sì, sì, sì. Non so. Senti Massimo, rispetto al testo, qual è l'operazione che hai fatto? Il testo è molto bello ma chiaramente è un testo incompiuto non soltanto nel finale ma secondo me anche poi nella fase che ogni scrittore insomma importante ha di rivisitazione diciamo di tutto il materiale durante il percorso, infatti ci sono dei momenti nei quali ci sono delle contraddizioni anche drammaturgiche a livello di nodi, cose che non funzionano, tanti personaggi che a un certo punto però poi spariscono, sembrano determinanti eppure no. Io ho deciso di prendere diciamo il filone principale, diciamo la storia tra Frida e Kappa e questa locanda che in un certo senso poi alla fine non è veramente protagonista nel romanzo, ma per me era il luogo più determinante all'interno del quale proprio si snodava tutta la vicenda principale, quindi ho scelto di tenere questa locanda come luogo unico anche scenografico e di trasformarla in maniera suggestiva quasi quasi in un passing away, un luogo un po', insomma, non luogo, che nel quale alla fine K fosse anche un po' imprigionato, infatti non riesce mai ad allontanarsi da questa locanda. Ogni volta che cerca di arrivare al castello, di avvicinarsi, improvvisamente o arriva la nebbia che gli impedisce di proseguire, o lui si perde e quindi è costretto a ritornare indietro, tanto che molti hanno visto in questo adattamento, che poi è stato reso benissimo insomma dalla regia di Jacopo Bezzi, una sorta di situazione quasi limbica, no? Alcuni si sono chiesti: ma questi personaggi allora sono morti? K è morto ma non lo sa, ed è in questo luogo dove deve prendere coscienza di quello che gli è accaduto. Insomma, ci ha stupito poi che da questa idea abbastanza convenzionale per costruire un adattamento e una regia, poi invece la gente abbia visto a più stratificazioni altri rimandi legati appunto a una sospensione, diciamo, di questa vicenda, come se fosse in realtà un po' la declinazione della vicenda dell'essere umano alla ricerca della sua identità in un viaggio che potrebbe essere quello della vita. Sì, sì. Ecco, in parte hai risposto alla domanda che volevo farti, perché è un villaggio ostile con gli ospiti, un ospite con una missione che non riesce a portare a termine. Il castello sembra un luogo inarrivabile. Ecco, volevo chiederti all'adattamento all'oggi, il castello, cos'è il castello oggi? Ma guarda, quando io ho riletto il romanzo in vista dell'adattamento, me lo ricordavo anche dai tempi del liceo, della scuola, ma rileggendolo l'ho trovato estremamente e anche purtroppo maledettamente attuale. Il castello oggi in un certo senso rappresenta la burocrazia, intesa in senso più ampio, non solo a livello amministrativo. È proprio come se ci fosse una sorta di realtà negata all'essere umano, che non ha la possibilità di arrivare a ottenere un certo tipo di risposte X, legate probabilmente anche all'esistenza, legate alla politica. È come questo castello, è come se fosse in un certo senso la verità, che però non è accessibile a tutti quanti. Quindi io ci ho ritrovato anche molto dei paralleli con la religione, Dio, oppure anche, per essere più legati alla nostra quotidianità di essere umani, la politica nelle alte sfere, quella che insomma è al di là di quella che noi crediamo essere la politica che ci governa. Non voglio arrivare alla teoria del complotto, però insomma è un po', come dire, l'obiettivo al quale l'uomo non può arrivare, ma verso il quale deve tendere, perché fa parte della sua esistenza. Massimo, parliamo anche un po' dell'esperienza Masnadieri. Sì, molto volentieri, molto volentieri. Anche perché quest'anno, l'11 gennaio, abbiamo festeggiato 8 anni di attività. Esistiamo dal 2007 e per noi è stata una grande conquista arrivare fino ad oggi. È un progetto scellerato che nasce tra le mura dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, dove ci siamo conosciuti io e Jacopo Bezzi, in qualità di allievi al corso di regia. È nata così per gioco questa associazione, in un'estate dove abbiamo risposto ad uno dei tanti bandi che venivano offerti alle giovani realtà, e poi da lì è diventato praticamente il nostro lavoro e la nostra vita, e si sono passati tutti questi anni e abbiamo costruito, nostro malgrado insomma, una storia, un'identità molto forte. Negli anni si sono anche avvicinati alla nostra realtà i nostri colleghi diplomati, anche loro in regia o recitazione, e abbiamo costruito un ensemble che è in un certo senso un'isola felice, perché noi qui ci permettiamo di poter esplorare, di poter lavorare, sperimentare sulla scrittura, sulla messa in scena, lavorare sulla recitazione. È una sorta di officina stabile all'interno della quale riusciamo a giocare con questa meravigliosa materia che è il teatro, e a trovare un po' noi stessi e inventarci il nostro linguaggio. Infatti non a caso tutti i nostri spettacoli sono spettacoli che mettono in scena un certo tipo di drammaturgia, come dire, diversa da quella del solito repertorio. Non abbiamo mai fatto un Pirandello o uno Shakespeare, ma non perché abbiamo una visione snobista nei confronti di questa drammaturgia, ma perché abbiamo sempre avuto interesse verso tutto quell'altro panorama che invece è snobbato passato dai cosiddetti addetti ai lavori. Abbiamo avuto la possibilità di mettere in scena testi di Margherita Yourcenar, che a parte le memorie di Adriano non è molto, come dire, presa in considerazione per tutto quello che riguarda la sua parte, diciamo, di autrice teatrale, invece molto interessante. Abbiamo un po' lavorato in questi anni anche alla ricerca di una nostra identità e devo dire che, insomma, è un'esperienza felice ad oggi. Ci costa molta fatica, perché chiaramente portare avanti un discorso di questo tipo nel nostro paese non è molto semplice. Le agevolazioni sono poche, le difficoltà sono tante, però devo dire che è l'unica ragione adesso per la quale per noi vale la pena continuare, insomma. È un po' il nostro figlio, io non ho figli, ma ho l'associazione, la nostra compagnia di masnadieri, che devo dire tra di noi ci costa anche quasi più di un figlio, però ci dà soddisfazioni, quindi insomma... Sì. È una bella cosa, abbiamo tanti progetti nuovi e speriamo, insomma, di proseguire. Ecco, proprio a questo proposito, alcune settimane fa avete portato in scena un nuovo lavoro, Dracula, sempre alle Stanze Segrete. Volevo sapere, su cosa siete impegnati al momento. Al momento, a parte chiaramente le cose noiosissime che deve fare una compagnia teatrale, come cercare di vendere il repertorio che ha acquisito negli anni, stiamo già lavorando a nuove produzioni. Abbiamo in mente un lavoro sulla riattualizzazione del mito, partendo dallo studio di Medea e delle madri assassine. Stiamo lavorando ad un progetto che si chiama Urban Medea, di riscrittura attuale del mito di Medea. Attraverso tutte le storie di cronaca cerchiamo di individuare dei profili di medee contemporanee e raccontiamo questo mito, purtroppo, come dire, presente in queste storie attuali di madri che uccidono i loro figli, in questo progetto anche qui multimediale, dove ci sperimentiamo con le videoproiezioni e con la danza. Sì. E questo, insomma, è il nostro, diciamo, progetto più sperimentale in questo momento, che nasce poi in un certo senso anche dall'incontro che in questi anni abbiamo fatto con varie professionalità, danzatori, videomaker, e siamo riusciti a concentrarci finalmente dopo tanti anni in questo progetto che ci vedrà impegnati tutta quest'estate, speriamo, insomma, di a portarlo in scena a breve. E poi porteremo sempre quest'estate a Roma, ma qui siamo appesi un pochino a quello che sarà il futuro dell'estate romana, quindi insomma per ora rimane un progetto, un mio testo che è stato selezionato al premio nazionale Città di Mesagni, è un premio letterario, si chiamerà Il fabbricante di bambole, ed è un testo che parla in particolar modo della difficoltà di comunicazione tra l'uomo e la donna e questi due mondi che si incontrano in questo negozio particolare tenuto da questo fabbricante di bambole, un modo per parlare anche qui dell'incomunicabilità, comunicabilità che c'è tra i due sessi, diciamo. Bene, questo è quanto. Massimo, io come riferimenti ho messo il link che rimanda al sito internet compagnia dei masnadieri.org e altri riferimenti web per saperne più di voi, quello è il più adatto, credo, no? Noi abbiamo una nostra pagina Facebook ufficiale. Sì. Che chiaramente si può trovare, basta digitare la compagnia dei masnadieri, ed è una pagina che aggiorniamo tutti i giorni, c'è una nostra fedelissima aiuto assistente che l'aggiorna costantemente, insieme poi anche al contributo di tutti gli altri che la tengono viva e aggiornata postando commenti in bacheca, quindi quello sicuramente è la cosa più, diciamo, accessibile e più fruibile da tutti quanti. Poi il nostro sito internet, che chiaramente è aggiornato costantemente, e abbiamo anche un canale YouTube, Compagnia I Masnadieri, anche questo è facilmente trovabile su internet, dove pubblichiamo piano piano, stiamo facendo questo lavoro, tutti i nostri video, i nostri lavori. Abbiamo in progetto, proprio perché siamo dei masnadieri, quindi dei folli, anche di aprire una piccola web TV, in un certo senso, dove possiamo anche mandare in diretta le prove, le classi aperte dei nostri lavori. Ah. E condividere in un certo senso anche la fase progettuale sperimentare con chi magari è interessato a vedere come può lavorare una giovane compagnia. autonomia e come struttura e dà vita alle proprie idee. Bene, bene. Massimo, allora io ti ringrazio, ancora complimenti, speriamo a questo punto di ospitarvi nuovamente. Speriamo, ne saremo molto onorati e quindi insomma sicuramente faremo di tutto per riproporvi qualche altra cosa. Bene, bene. Allora speriamo a presto. Un abbraccio, Massimo. Anche a voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.